chi è? Avanti, chi è? Avanti, chi è? E tu cosa stai combinando? Sì, niente, sto provando questa radiolina, mi ascolti? La foglia. Arriva bene. E mi è arrivata oggi, dai. Oh. Bellina? Sì, sì, quella 500 mili infatti. Ehi, niente. Ehi, siamo vicini, cara. Siamo vicini. Sì, so che non c'è display, non c'è nulla. Ehi, l'importanza è che vada bene, anche se non c'è display. Magari l'occhio con la sua parte, però non è che si può pretendere più tanto da quella roba, capito? Ah, quello senza ombra di dubbio. Certo. E anche io, così piccolo, dai, a vanno. Oh, guarda, ti ascolto benissimo, c'è un audio per bello, eh. Ma quello che c'è non so se ci arriva, aspetta che lo provo, dai. Sì, prova. Luca! Ehi, a Giomari! Allora, questo... Ti ascolto benissimo! Sì. Questa... 500 milliwatt, mezzo watt. Arrivate anche qua, perfettamente bene. Ciao, Cla. No, vanno bene, sì. Oh, Giovanni. Non ti sentivo più, Ho capito. Ho detto che non ti sentivo più. Mi sto abbandonando con questa figlia e di quelle dirette. Sono sbagliato, secondo me, sono sbagliato per questo. Ti ho ascoltato benissimo. E oggi andati a fare? No, oggi niente, perché la verità non ne avevo voglia. A pranzo me li sono fatti, con le uova buoni, buonissimi. Veramente, guarda, ottimi. Beh, l'ho preso. E poi, a fare tutto, gli spettacoli anche, va. Va bene. Ogni tanto bisogna mangiare anche quella roba, che ne abbiamo bisogno anche di quello. E si conferma, mi sto preparando che sto andando a fare una commissione. Che devo riparare un tablet, che devo fare una ricarica post pay. Preparati pure, ci sentiamo, dai, posto di domenica. E ci sentiamo. Sì, semmai ci sentiamo dopo, quando vado, faccio la ricarica e rientro subito, dai. Capito. A dopo, dai. Ciao Gufo! Gufo! È strano che non l'ho sentito. Oh, stamattina, c'era. È sparito e non l'ho sentito più. Stamattina io non c'ero, sono arrivato qua a mezzogiorno, di più, mezzogiorno e mezza era, quasi l'una, là. No, era proprio parlando insieme, pochettino, nemmeno 10 minuti, però è sparito dopo e non si è sentito più, sta niente, sta senza stasera. Sta acceso qua se vuole entrare, ok? Guarda che non si è 27. No, non si è, è acceso. Vabbè, a dopo Giomari. Ciao anche a Claudio, se che in ascolto, ciao. Ciao Lu, ciao anche a Giomari, arrivate benissimo, non ti preoccupare, ciao. Ciao. Arrivate alla grande, ciao. Ehi Lu! Luca. Luca Montanaro, ci sei? Luca, sto mangiando gli asparagi. A chi asparagi è andato, Giovanni? Ma oggi non è che c'era tutto questo sole, no? È gatto un bel naus, ma... ma non penso che ce ne siano, che ne abbia trovati molti. Gli asparagi scendendo per una ventata di sole, proprio. Caccia, oggi noi che fila, ma... L'avrà educato che tu, c'è andata alla zanca, a canica. Se per non vigliare abbastanza di altri, qualche tu non l'ha trovato. Sole, non è che da sei casi. Domani insegni, domani è, vami, l'ha detto, pizzamento a sabato. Noi chi lascia nei piedi i bacini, no, che l'altra volta stava dicendo vieni tu e va fino a... Luca, ci sei? Io l'uovo ti stai mangiando, bello bene. Lupo! Chi è? Su buia! E la spara ci mangiati, te li hai, me lo fai! No, adesso me li preparo! E molti ne hai troppo! No, grazie, è tanto giusto, dai, tanto di fare una frittata e un... E domani un... fai un piatto di pasta per uno, dai! Perché non è la giornata molto bella bella, quando c'è un bel di sole come avanti ieri, già se andavi già ne trovavo. Io adesso mi sto organizzando per andare venerdì o sabato. Ah beh, quella zona che ti ho detto io a Maccia di la Bava, non lo sai. A Bancali? Non è a Bancali, è la zona di Bancali, lì nei gruppi. Sì, ce n'è un sacco, ce n'è. A Canica hanno perfetto, ma... A me me l'ha detto mio genero, mi ha dato e da quattro pezzi. Capitai dopo lì. Però bene. Sì, ho capito, però... Dai, adesso... Dov'è? Mi taglio la cipolla che devo fare... Devo preparare gli asparagi. Sì, faccio. Adesso mettiamo le ciprolle. Chi è? Luca. Ciao Luca, chi Luca sei? Luca. Chi Luca sei? Luca. Sì, sì. Leoncino sono, là. Ciao Leoncino, e beh. A posto. Sì, sto a posto, niente d'ordine. E una cosa, Lu, ma tu la domanda è quella del Ricci, il Ricci, l'avevi fatta? La domanda è il Ricci? Sì, la domanda del Ricci. No, non i vostri, di cose, non mi interessano. Tanto ci aspetti a loro, non è facile Giuseppe, non mi interessa. Preferisco che mi diano lavoro. Lo so, vabbè. Pensavo che sapevi qualcosa. No, io non ho fatto nessuna domanda di queste. Io sono esattamente dal 2013-2014 che non ci vado più da loro. Ho capito, beh. No, perché io l'ho fatta e ancora mi devono dare di là. Non te ne hai dato di là? No, sono andato stasera, dice, venga la prossima settimana che sono in pagamento. Quanto sono al mese? 200 euro al mese. Sì, che si capisce con 200 euro uno, ma che non si ammazzano. È quello che dico io, sono gli ultimi che ci devono dare perché erano per 6 mesi e poi diciamo hanno fatto le cose, però qua ce ne devo dare altri 2 mesi e boh. Sì, che c'era anche Graziano. Ah, ciao Graziano. E vabbè, vuol dire che è occupato. E io sto preparando gli asparagi per domani, così mi faccio la pasta. Pasta, pane e asparagi. Beh, dove li hai trovati? Lì a Cosa, vicino a Usini. Ah, molto ne ha fatto. Al senso di una mangiata. E vabbè, hai fatto bene. Sono buoni, buoni, dolci dolci. Lo so, il matto lo stanno vendendo a casa a 3 euro e qualcosa. No, uno che conosco io, secondo me li sta regalando, vabbè. Ne ha fatto un bene, ne ha fatto due bustoni. Queste sono quelle buste che... quelle delle borse della spesa, 2 ne ha fatto. Se li ha venduti 70 asparagi 5 euro. E cosa vuoi? Arrivato a un certo punto qua, ce l'avevi saputo, ce l'hai andato anch'io. C'è la macchina, sì. Sì, ce l'ho la macchina, però se non trovo compagnia. Un pomponi o vai? Quello non ne conosce, e tanto ne conosco io. Se vuoi ti guarda, mi se ne è andata l'azzurra, si va un giro, a che parti? Ci sono un bel lì, zona Muros, Uri, là, quella zona lì. Già lo so. E adesso vediamo la settimana prossima se tutto tace. Vabbè, comunque lì o vai a Uri oppure vai lì a Coso, a Muros. Ho capito. Ma sono, guarda, una bontà. L'abbiamo fatto un riso, guarda. Buoni. Già lo so, già li conosco. Già. Me l'hanno anche regalati gli asparagi, però... li ho finiti. Puoi fare con tutto, va, riso, pasta, con le uova. Io le ho fatte con le uova, quelle fatte a frittata. No, preciso. So che andrò a fare la pupupa di Biago. Lo so, però pazienza, però è la cosa sana. Dice che fa bene. Graziano, ci sei? Ma non è su computer. Sono buone e fanno molto bene. Già lo so. E una cosa, un'altra cosa ti volevo chiedere, Luca. Luca. Sì, vabbè, è stato felice. Qualche moto a seconda mano c'è? Che qualcuno sta vendendo. Una moto a seconda mano? Un cinquantino. Sì, lo zip mio. Cosa stai dando? 400. Quanto? 400. 300. 400, cosa c'è? Se io puoi come dire è nato. A 400. Adesso vediamo. Com'è? Ti farò sapere. Ti vedo non la do. Qua era uno sgabuzzino. Se la vuoi non è quello il prezzo, se no la lascio. Ci ho messo la gomma nuova davanti, fatti i freni nuovi. Ti do la sella corta che c'è sotto adesso e poi la sella lunga. Sei un molto bene di là, credi, un bel soldi. Ma per te, Giuseppe, per te. Luca. Vabbè, avvisi. No, sono qui. Frittatina. Questa è una bella pasta domani. Sto cucinando, a poco letto. No, a me mi hanno portato dei funghi, veramente una puzza me ne hanno portato. Se me li mangiare tutti così adesso, guarda. Sono con la cipolla, tutti così. con il pane, con la riso. Lasagna all'uovo, bello bene. No, pennette. Polpette e fettine impanate e pinocchio. Sono non sono buoni le polpette di riso con gli asparagi. Mamma mia, che bontà. Ma la riso, io faccio il più di riso e poi faccio le polpette con quello che rimane. Bello bene. Ma non vedi che c'era, c'era l'emojino, c'era? Era il computer navigando da un mare all'altro. Ah, navigando sta, ho capito. E allora, sono andato in Thailandia, in Cina, Hong Kong. Che ho fatto? La thailandese ha detto che viene e mi sposa. Buddha Buddha ci fa sposare e devo essere sicuro. E loro cucinano piano piano. Ano ano. Sono buoni buoni, fanno bene bene. Sono spavi, per l'amore. Allora ci inviti a me a Lucca. Guarda, non basta, ne manca a me. Pensa, ne manca a Marina, forse manca a Marina, avanzani. E avete delle cucine, Luca, Luca Gruppo. Le uova le portiamo noi, da. Cosa fate da me tutto? A fare anche uova e Luca Gruppo mangiamo. E abbiamo trovato anche queste pietole belle, proprio belle, buone, buone. Ma bella, grazie. Stamane le lavi i denti, no, in giro. Un euro il mazzo. Allora, l'ha pigliato il sottossico. Un euro un mazzo. Ha fatto i mazzetti, per poco all'incirca erano tutti uguali. Tagliati con un cannaio di lice di plastica. Grazie. Dimmi! Beh, lasciamo dire a Luca che l'ha comprata di sotto ossico. Ma oggi vado a cugli minili, belle comunque. Beh, la vende 30 centesimi a un mazzo da 3 kg. Io la ci faccio la campagna, la chiede abbassata. Magnata vita, ma ci ho fatto. Con quella io facevo anche i ravioli, Luca, in mezzo alla ricotta. E anch'io. Anch'io li facevo, poi mi si è rotto il rullino della macchina, no? C'avevo una macchina che faceva sia da impastatrice che da gli attaccavo gli inserti, no? A motore, e faceva la spuglia, vazia le tagliatelle, capito? E però mi si è rotto il rullo che appiattisce la pasta. No, quella manovella a mano l'avevo io, poi mi si è fasciata, me la devo ricomprare. Mi compro quella elettrica, però. La mano era? Quella che c'avevo, sì, la bloccavi al tavolo. C'era morsetta attaccata. La bloccavo al bordo del tavolo e funzionava a mano. Filava la mano bella e facevi le sfoglie, no? Grazie. Dico. Grazie. Ehi. Quella che avevano fatto anche il motore per quella a mano, c'era la mia vicina, gliel'avevo comprato io a Porto Torres. C'è il motorino apposito che lo agganci e capito, invece della manovella. Ma quella lì ce l'ho buttata, me la devo comprare e me li rifaccio, non sai quante ne faccio e vorrà più. Filavo pure tutti in alto all'orecchio, puniamo un lenzuolo. Una tovaglia sopra l'orecchio, manna, tante l'orecchio, tutta piena di ravioli. Invece mia nonna li metteva, siccome costruiva i cestini, quelli in vimini, no? Ma li guardiamo anni, quelli più di un metro e mezzo di diametro. E li metteva tutti lì, ma già tu vedi i cazziani. Ma io anche qua sul tavolo le mettevo per soggiorno, mettevo la tovaglia, un po' di farina, li buttavo su e li appoggiavo tutti lì. Buonanotte, lì, su, frecchi, frecchi, altri che si vendono nel supermercato. Un burro, lì. Io so, ma è un lavoro, è un lavoro anche quello, già lo so. Da giù quattro di burro, ravioli, tagliatelle, vazio. capito. Fate cotte le tagliatelle, capito? Fatevi mezz'ora prima e cotte, appeggi un attimo al bastone. Anche io quelli li faccio io. Fate mangiare, no, e allora lì si appena fatti subito mangiare. I ravioli invece già ne conservavo anche nel pozzetto, li mettevo nel contenitore e me li conservavo pronti. Quando mi li via, pigliavo un contenitore, li bucavo vicino in vera dentro e ci usciva al pranzetto per 5 persone. Sai come se... è un mio amico che ha detto che se ne rimane a 180 la giura. E allora ci batto, io non mi rimango il zinco, tocco gli api, se gli api mi rimango il 6 o 7, non mangio altro, mica tecciano, ma buffoletti. Ma visto, se volete mangiare ti pone le mani in capo, e noi grasso. Adesso 180 ce ne mangiano abusato. Babù! Va bene, già beppe i nipoti, si rubano a mangiare, non ha sapere un capo. Tu li poli tutti i piatti, nata la banca, capo non nata mai, manco un minuto. Se tu lo fa vedi, manco ti riposi. Con un capo incinato è sempre andente. Un giorno l'hanno messa a scommessa. Se figli, se non si mangiava tutti i suoi denari, arrigavano i pagamenti. Se si non mangiava, pagava lì. Pensava che la vasoia di batti, romanzano, si mangiava, da chi era tutta la notte, ma niente. E fa finire un vasoio di pasta e quattro cappuccini. Certo, io sono un pozzo, vedi così, al bar le vele, bar, ristorante, pizzeria, già lo sai dove, per andare alla motorizzazione, in quel locale lì. Sì. Come te Luca, dai, come te Luca. Dopo i gridiali gli dice, sì, mi vero fare il sabato, quando l'ha detto a mangiare. La gara, chi ti sono crepati? Chi te la sempre mangiati? Hai visto papà mi solitario? Chi ti sono solitario da mangiato? Tutto questo che tu cavalli e pure un vizio che non sarei mangiato visto. E il manzano va a finire il vasoio che porta quello bianco, il pasticcino, adesso non so quanto è pasticcino. Sta mangiato, vizio un vasoio. E quattro cappuccini. E beh, persi vi siete, belli bene. E io? Beh, vado a preparare, ciao, ci sentiamo più tardi. Avanti, Giovanni. E io, una battuta, c'è gente. Ci sentiamo domani, lui, ciao. Da anche all'altro Lucchia, Graziano, chiudo. E c'è gente. Ehi, ciao Giovanni, a domani, vai lui. Buonasera, ciao, ciao Luca, io intanto tra un po' me ne vado a casa, cosa fare? Buona mangiata e sparaci, ciao. Ciao, ciao, adesso chiudo anche io, Luca, se lasci gli asparagi, lì già ragazzi di umani, ricordo un ciappo, Marina, e ciao asparagi, ciao. Ciao, grazie, dai, ciao, saluta la Paoletta, ciao, buonanotte. Ehi, a me la spara, se lì li lasci. Non le tocca a Marina, no, no, poi se si può toccare si rimagna, si può più mangiare. Ma non penso, poi la Marina di oltre non mangia. Si è mangiato le pietre, buone quelle pietre, le dolci dolci. Ehi, sono buone quelle campagne, hanno tutto il sapore. Mi cari, poi vieni a fianco a chi vende le diserra. Chi sono fatti che a bidoni leva, a pompa continua, quelli lì sono più sani, più buoni. Vabbè, ciao, a domani. Perché se passiamo di nuovo quella zona là, torniamo là a fa, lì c'è una pianta grande di coso, di bietole. E la tagliamo tutta, ma grande, belle, ogni voglia, proprio lucide, belle, proprio belle. Messa minore è più tenera, e quella che trovi più bassa, più piccola, quella è tenere, buona è. che c'è di l'acqua e buono fa su frigida con l'uovo. Sì, ma io con le uova purtroppo non posso, non posso mangiarle più di tanto. Se si mette in moto i calcoli, si stifella, è un casino. Ehi, va bene, là. Te le bollisci, la salata già sono buoni lo stesso. Vabbè, ciao, a domani, ciao ciao. Ciao, grazie, ciao. Ciao, anche da parte Paoletta, buon con tutto. Sì. Va, grazie. Grazie altrettanto. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Ma vuoi rubare, trovate, mandamelo. Ehi, era caduta nel fondo della cassetta, capito? E c'è appiattita. E così che da fuori non si vedeva, capito? Anche quando abbiamo aperto la cassetta non si vedeva perché lui era nel fondo, capito? E beh, Luca. Ciao Franco, ciao. Ehi ragazzo. Mi senti? Sono in sala, mi fra. Sì, ti ascolto, già ti ascolto. Bene, bene. Con chi stai parlando? Sì, con Luca c'è rimasto. Ah, Luca del Monte. Non lo sento. Ehi, Luca del Monte. No, già arrivi bene anche tu. Arrivi bene, fra. Ehi, sono diciamo in terrazzo, dai, dentro il barbecue. Ah, ti stai arrostendo? E allora? Lui. Ok, dai, sono entrato solo per salutarvi, ci sentiamo. Ciao Luca. Ciao anche a Luca del Monte se mi sente. Se no me lo saluti tu. Ciao ciao. Sì, ti arriva sparato qua. Sparato arriva. Mi sembra il mio quello. No, non ce l'hai tu. Io sono, è preciso. Preciso. Preciso. Sembra fuori. Ah, quello là è Lu. Veia. Capito. Infatti ho visto la digitazione delle frequenze, sì, le fa uguali, mentre l'altro no. Beh, infatti. Ok, va bene, dai, ci sentiamo. Ciao, ciao, buonanotte, devo andare a mangiare, mi stanno chiamando. Ciao. Ciao, fra, buonasera, saluta a casa. Buonasera, avanti Luca, se ci sei ancora. Io, salsiccione di pollo con vino bianco. È buono perché è leggero. Il pollo è veramente leggero. Certo, se tu ci metti questa pronunciosa. Addio. carità, mi ha fatto un po' arrabbiare. Hai compreso la prepotenza. No, convita subito. No, vieni adesso. Al massimo oggi pomeriggio, però devi venire adesso. Ehi, ti rilassi. Qualche tubo deve essere suo, perché ha detto che adesso sta prendendo anche da sotto. Capito? E bisogna dimontare la cozzina, i pensieri, dimontare tutto. Vedere, cercare, perché così non puoi valutare niente. Devi cercare dov'è la perdita. Però se era bagnato su, era da su, cioè è su però tubi nel controsoffitto, no? Abbiamo guardato, non ne passano, l'unica soluzione era da quel tetto, dal cornicione lì. Continua a spaccare prima, vabbè. Sì, ho mandato il numero di un idraulico, magari ho chiamato l'idraulico che gli ha fatto l'impianto, Ok. Oh Luca, guarda, ti ho mandato dei messaggi su WhatsApp. Ciao ciao. Ehi, ciao. Aspetta che sto seguendo il cane. Aspetta che sto quasi perseguitando il cane. L'ho lavato. Sta facendo il giro della casa. Aspetta che lo sto perseguitando, ma che mi bagni tutto il letto. Veramente l'incrivisione me la bevo io, ma tu ti bevi il vino. Vino rosso. Così ti facciano un foso, ti facciano, va. Sì. Beh, ci dite, perché dopo le fastidio non lo bevi mai il vino, ci dai. Se l'hai fatto davanti a me, va. Ma oggi non sei uscito con quella specie di cosa. Cerca di di cercare un come cazzo si chiama, così almeno mette in moto quel cavolo di macchina. Se ogni volta devi spingere, non è mica la 500, no? No, c'era proprio il telefono, c'era Simona, stava parlando lì. Poi già lo sei, ha chiamato tu, è rimasta più di mezz'ora con te. Io ero in cameretta. No, ero in cameretta io. Capito? Tranquillo che ero in cameretta. Stavo sistemando il coso, stavo guardando a vedere quanti volt ha, c'è quella specie di aspiratore di saldatore, come avevo voluto chiamare, la base saldante, e anche recupero un saldatore a 24 volt e così la riutilizzo quella cosa. Non sono entrato adesso un tubo, e ho tornato a lasciare a casa, so. Non sono uscito nemmeno, sono uscito solamente a pigliare il coso, 5 minuti, il sigarette si muore e basta, ho lasciato il telefono lì e gli ho detto arrangiati tu, infatti poi mi ha detto che stavi parlando così bene a lui, domani ci vado, no, l'altro giorno ero davanti a casa tua, sono passato via a Marsiglia, ho preso della roba per lui, per Nico, ho bevuto un paio di birre e me ne sono andato a casa, me ne evitate lui. Solo quando lì ho bevuto e basta, poi non ho bevuto altro. E tutta la sera in giro. Anzi, ieri mattina mi sono fatto una bella passeggiata. Guarda che il coso, la carta d'identità, ci vogliono 27 euro e 60 centesimi. E se la devi fare, devi farla via poligono. Se no te la fanno ad aprile. Quindi se vuoi prendere l'appuntamento ti accompagno e così te la fai subito, perché quella cartacea non serve più a niente, a meno che non vi presenti, non so se la patente va ancora in di norma. Guarda, dico, come l'hai fatta adesso quella nuova, lascia perdere la cartacea anche se ci mancano 2 anni, perché adesso costa 27 euro e 60 centesimi, tra 2 anni minimo di te costerà 40. Meglio così, è una prassi un po' strana comunque, perché devi prendere l'appuntamento, andare di là, tale giorno ti chiedono di dargli dei prodotti digitali, poi vengono mandate su al Ministero dell'Interno, dal Ministero dell'Interno poi in pratica dopo due o tre settimane che fanno i controlli ti arriva la carta di identità a casa, quella digitale. Hai capito? Anche la mia scadeva, ma l'ha messa male, cosa che dovevo fare secondo te? A un certo punto, fanculo. Io spese, è meglio quando la metto dentro il portafoglio, rimane tranquilla, non si apre in due, eccetera, eccetera, e non l'ha aperto. Perché mi piglio un bel portafoglio di, andiamo assieme da quei cinesi, quei portafogli là, che ci sta tutto dentro. Lo so che è una tuffa, gli ho detto, ma la cartacea non va bene, no, la cartacea non vale più, mi ha detto. Facciamo solo quelle digitali e basta, sia al comune e sia al poligono sono andato, via poligono, dove siamo andati assieme all'amico tuo, adesso non mi viene in mente il nome, hai capito? E quindi ho preso l'appuntamento, adesso si deve andare il 6 di febbraio, alle 8 devo essere lì, quindi devo prendere la 25, adesso la 25 non ci passa più sopra il ponte del Rosello, perché stavo temendo un secondo, ne scende da un momento all'altro, e quindi passa a fare i giri strani, fa, capito? E devo fermare la seconda fermata, dopo via Giovanni Pasqui, l'ultima in pratica. Dopodiché continua per la telogia. Allora lì consegno tutto quanto e poi gli pago questi 27,60 centesimi e se la troncano in culo. E poi mi arriva direttamente a casa per via postale. A tutti stanno facendo così. A tutti. Tu immaginati che al comune non c'era posto fino a cosa? A marzo. Quindi figurati quanto ne stanno facendo, tutte nuove, quindi non stanno finendo solo per il culo a me, tutti a Sassari. Vedo che non ci sono mai andato io a votare, se lo vuoi sapere, siamo 20 anni che non voto. Tanto adesso fa poco cominciano a mandare i fogli a casa, carissimo amico mio, che non manco lo conosci, tu ti manda la fotografia, hai capito, per votarlo, eccetera, eccetera, come ogni anno. cioè ogni volta che fanno queste cazzo di elezioni, sia politiche sia regionali, solo in quel momento lì ti conoscono, perché vanno all'ufficio anagrafe e cominciano a prendere un po' di nomi e cognomi e poi ti mandano le foglie a casa. E tu, e dici, che cazzo ti sei mai curato a te? Non ti conosco e mi mandi foglie a casa con tanto di foto. Il discorso è quello lì. Magari c'è quello che ci casca, siccome capito, senza lavorare, lo prendono per il culo. Il discorso è quello lì. E invece l'amico del parente, quelli diventano subito, vedi? E come vuoi chiamare? I santini li chiamano quelli. E purtroppo fanno così, ogni volta che ci sono le elezioni, tu mai se ne sono arrivati, gente che ti... Sai quanta gente mi è... quando abitavo in via Rizzetto, scrivevano a mio padre, e mamma diceva, e chi mi conosce questo? Dice, amico mio, amico mio del male che faceva. Arrangiati, hai capito? Poi quando andavi magari lì al... dove c'era la sede loro, oh sì, guarda, adesso ti faccio un foglio, te lo firmo, tu vai da questo amico mio, e lì, quando sono andato un giorno da... sai cosa mi ha risposto? Io non lo conosco a questo, chi è che ti ha detto di venire qua? Lui mi ha detto di venire, non mica sono venuto da solo io, no, non lo conosco io a questo, gli faceva, hai capito? Tu guarda da coso, non so se l'hai mai notato, hai visto io il medico che c'ho, lui è assessore, anzi era assessore, no? Ma lo sai la gente che ci andava, le ragazze che ci andavano lì, guarda, avevo bisogno, non è che ci andava solo per esclusivamente per avere qualche medicina che stava male, no, esclusivamente per avere un incontro per poter entrare in posto di lavoro, andare, capito? Un giorno gli ho chiesto, io ho detto, guarda, ho detto, se vuoi il voto, perché adesso si è candidato regionale, mi ha detto, dice, cercami un po' di voti, e gli ho risposto io, ascolta, ho detto, e ho detto, voti che ne posso avere, detto, quanti ne vuoi, il problema è che mi devi trovare, devi fare una cosa, o mi trovi il lavoro o mi dai la pensione, e gli dice, così non posso fare niente, mi ha detto. Allora, se non puoi fare niente tu, non ti faccio niente anch'io, gli ho detto, avvaggiati, ce li hai gli iscritti, gli ho detto. 5.000 voti li prenderai, poi bisogna vedere se tu entri alla regione, non è così facile, gli ho detto, come Ganao. Quello è stato furbo, vedi? È stato furbo, prima non si poteva neanche, non, manco lo denunciavano, ma se lo fa adesso, adesso va a fare i suoi. Io dovevo andare a Giovanni Pina una volta, la buona anima. Lo sai, ogni volta che andava lì alla Teloce, perché lui aveva i soldi, no? C'erano un po' di milioni, cioè di milioni mesi da parte. Prendeva, andava con i soldi, quando voleva andava da questa qui, al primo piano. In pratica abita di fronte a uno che c'aveva la chiave. Lo voleva parcheggiare, andava lì, si faceva il suo coso e dopodiché se ne andava di nuovo a casa. Infatti non c'ha solo quei figli lì, e altri 4-5 ne ha di grande muscolo, ci sono tutti affarrati, tutto quello che aveva lui, sette case, poi capannone, tutto quello, si sono affarrati tutti i figli, uno per uno, e non c'è rimasto più nulla. Tutto venduto si hanno, non gli è rimasto nulla. Ciao, tu immaginati che da via Milano, visto dove c'è Capannone lì, quello grande dove siamo passati parecchie volte noi, lì a San Simplicio. Da lì il terreno arrivava dall'altra parte, dopo la ferrovia. Non so quanti ettari c'avevo, tutto sono venduto. È stato furbo, capito? È stato un volpino. Ciao Marco. Beh, di cosa state parlando? Di più del meno, aspetta. Prima c'erano i soldi, hai capito? Vabbè, adesso per la questione dei multireddo ci sarà un bel casino, adesso si fanno tutti i parenti, sogna pochi di milioni quello. Uno mi sembrava aveva avuto un incidente, se non mi ricordo male, dovrebbe essere messo male. E quelli sono tranquilli, quelli che hanno il posto di lavoro, usano da tutti. Perché secondo te mai dare i negozi non gli ha dati, non ha fatto la clausola, Sì, io vedo i negozi, vedo le mura, però mi assumete i miei figli e i nipoti, capito? Eviterete anche il personale che c'era prima. Già lo sai che lui faceva così. E se no questo sarebbe stato tutti a casa. Beh, quello è beato lui. Avanti Marco, come va? Così siamo usciti tutta la giornata a casa, sdraiato a letto. Sdraiato a letto tutta la sera. E non ti viene il mal di schiena? No, anzi, è che sai, eravamo senza denaro domani, uno finalmente una boccata di d'aria. Ah, è vero, domani uno, vabbè. Io non ci stavo neanche più pensando perché la pensione di Giampiero non la ritiro più io, la ritira Giovanna, quindi è lei che ci va alle poste. E quindi dell'uno proprio. Sono coesistenti solamente quelli del comune. Ho sentito Giuseppe dice che diranno fra la prossima settimana. Speriamo bene, almeno mi incasso 600 euro. Io non sono entrato al baracchino, niente, sono entrato a salutare qua e boh, visto che ho trovato gente. Da. Come mi danno quei cosi, Marco? Ordiniamo il, come si chiama, il ripetitore, quello famoso, così me lo installo. Mica te ne penti. No, me ne pento, non temo nessuno io, già lo sai, non c'è niente da temere. Ci metto il tono, chi c'ha il tono lo usa, chi non c'è il tono non c'è neanche, cioè non sa il tono non lo usa per niente, chi c'è poco ma sicuro. Sai cos'è? Quello sarebbe stato utile se avessimo avuto tutti 500 bigivac, tutti omologati, ma siccome arriviamo in diretta, quasi tutti in diretta, cioè a chi giova il pappagallo? O a quelli che ci hanno apparecchi giocattolo forse, boh. No, veramente io quando esco me lo porto appresso il portatile sempre, anche quando vado al centro storico per dire, quindi parlo tranquillamente con l'apparecchio, non è che mi porto l'apparato grande, lo voglio agganciare io a questo qui, a quello grande, e poi il portatile me lo porto appresso. Hai capito? Almeno se mi serve, cioè se devo parlare, riesco tranquillamente a parlare con tutto il sasso e con l'antenna in gomma, in qualsiasi punto, capito? Poi gli metto, ripeto, se gli metto il tono e lo accendo e lo spengo come voglio con la tastiera. Eia. Poi il tono può essere analogico oppure digitale, a scelta, lo sai. Siccome usano più che altro l'analogico, tu puoi mettere il tono digitale anche migliore dell'analogico, tanto ce l'hanno tutti, anche noi. E così farò, ci metto il tono e poi faccio l'accensione e spegnimento tramite la tastiera del Baofeng, capito? Come sia autoritario? No, anche perché se lo dovessi lasciare normale, lo sai come, succederebbe un casino, perché parlano sopra, il discorso non si capirebbe più niente. Invece in questo caso qui, noi che lo sappiamo usare, lo accendiamo e poi lo spegniamo quando vogliamo. Utilizziamo il tono e parliamo tranquillamente. Chi tono ne ha, si arrangia. Ehi, va bene, dai. Io ti saluto che vado a vedermi un film. Qualsiasi cosa sia. Ok, buona serata. Con chi stai parlando? Con Mario? Eia. Perché qua zero totale, l'unico che non arriva proprio. E adesso già li faccio piazzare l'antenna esterna, uno di questi giorni, mi appena si sistema la macchina. Tanto cavo già ne ha. O li metto un'antenna sopra il tetto, di quelle in acciaio. Non so, la metto una terra nel corso, nel giardino, già dovrebbe arrivare a casa tua, voglia, con un palo da 6 metri. E che antenna metti? Già ne ha antenne lui, di là, UEU. Una di quelle in acciaio li metto, di stile carabinieri, ce l'hai presente. Vabbè, l'importante è che non abbia troppe stazionarie, fino a due vai tranquillo. Tanto te l'ho detto, no? Questi portatili d'antennino in gomma originale c'ha 3, 4 e anche 5 di stazionari, lavora dai 3 ai 5 di stazionari, figurati. Eppure il finale resiste. Già lo so. posto, se no già vediamo un po'. Io adesso ne voglio togliere l'X300 e mi prendo quella che c'è tu uguale, mi interessa a perdere tempo, cioè ogni volta non esce nulla, mi ce l'ho piazzata in debatta, poi la stacco quella lì, l'X300, la svuoto, la conservo e piazzo quella PDPMR. Poi tanto per l'altra frequenza c'è un'altra, quindi mi va anche bene. Ma la mia, la Sirio CX4340, quella corta? Eia, quella lì voglio prendere. Il venditore in Italia l'ha finita e non ce l'ha più nessuno. Se la vuoi la devi ordinare dall'Inghilterra. E vabbè, qua non costa la stessa identica cosa. E no, ti costa di più di spedizione. Viene dall'Inghilterra. Tu dovrei approfittarne. Ce l'avevo tanti mesi, ce l'aveva tanti mesi, ne aveva due. Ne aveva due in Italia, poi oggetto venduto, terminato, capito? Io beh, anche quel periodo io non avevo, ma i cose, i parrot c'erano sempre questo. Terminati, adesso boh, bisognerebbe fare una ricerca quando sarà il momento opportuno e facciamo la ricerca e vediamo di prendere tutti e due in un blocco. Così faccio prima. Oppure, come ti ho già detto, Diamond PC202, un metro di altezza, 1,10, tarata dove vuoi tararla tu, la staremo assieme anche con Rosmetro, ed è risonante quella, non è come l'X30. E l'X30 non esce nulla, perché ce l'ha Graziano, ed esce più basso durante la ingomma. Perché l'altro giorno ha fatto la prova, arriva a Santiago 4 con la X30 e invece con gommina arriva a 9 quasi. Ma sai cos'è? Quell'antenna è strana, dentro c'ha tutte bobine, condensatori, quelli lentizia, quindi se sei fuori banda credo che sia un pasticcio. Invece la Sirio mia credo sia tutto metallo e anche la Oxin è tutto alluminio, capito? Non ne ha la parte interna, condensatorini, coso, bobinette, non ne ha, è solo alluminio. Te l'ho detto, io non la compro solo per non rimanere senza soldi, se no me l'avrei già comprato. Detto ciò, ciao Antonello, vado a vedermi il film, buona serata, saluta Mario. E via Marco, va bene, al momento opportuno già ti chiamo, così mi ordino quella roba. Ok, ciao Marco, buon film, buon tutto, avanti Mario, lascia il vino, torna qui. Come ti dicevo a te per la birra. E allora, come dicevo a me per la birra, a me mi chiama signor Rinchiusa, io lo chiamo signor Vinello. Ciao. Ehi, ciao. Dimmi, sono tutto orecchie. Ciucucciu, dimmi, sì che ti ascolto, sono disturbato, ehi non la buona, non posso mai attaccare la verticale perché c'è tutto il cavo da cambiare, è nero come carbone la calza, quindi non sta facendo massa, e sarebbe inutile attaccarla, è staccata. Il 58, segnale 0 radio 4, ti posso dare, ti ascolto bene, esatto sì, adesso voglio vedere se ti sento con l'88. Vediamo se si sento con l'88. Parla. Prova un po'. No, non arrivi, no. Con l'88 non arrivi. Con l'antenna in gomma lunga. Sto parlando. Evidentemente magari è uscito a pigliarsi il caffè. E di solito lui va al bar a pigliarsi il caffè, alza al circolo. Caffè ammazza caffè. A quest'ora ha finito l'effetto della pastiglia, quindi si piglia il vinello. Ah, ti volevo dire, stasera verso le 4 ho acceso il coso su questo canale, cazzo, sentivo i propagazione dalla roba, boh, forse Ungheria o qualcosa del genere, ma arrivavano furti, mi segnale 7. Rientrato sei dal circolo. Ti faccio accuse di mattina, eh. Dove vieni? Al circolo per vendo, porco. Tu sei stata la cosa, pigliati il caffè, la mazza caffè, a futtidini. E dirà a tutti. Marrato. Non sono mai cucito che cazzo. Ah, giovito non ci sono andato stasera. Ci vado domani. Sul dito, non ti preoccupare. Tutta la sera qui, da una cosa all'altra. Uia. Logalidade. Adesso ho mandato prima quello che beveva il vinello, con le pastiglie. Anche già però faceva così, pigliava le pastiglie e poi si beveva la birra. Andi via Matturi e poi ti pigli il vinello. Adesso ho comandato prima. Sì. Uia. Adesso vado a pigliare le sigarette di nuovo. Che bar qui vicino aperto, devo stare. Fino alle 9:30. Era le 10. Vabbè, non c'ho voglio. E già c'è Cicci aperto, non ti preoccupare. Le prendo lì, all'automatico. Aspetta, c'hai ragione. 10:45 sono. A che chiuso è? Di sotto credo alle 9:30. Io c'è l'automatico da Cicci. Così poi faccio una passeggiata. Vabbè, mi è arrivato il secondo messaggio. Comare, dopo un'ora, ragazzi, 15 euro speso a Poste Mobile. Ho caricato alle 7:30 e tra un messaggio e l'altro, ho capito, fanno passare 2 ore. Siccome a me del computer non mi è sbatto un cazzo, tanto meno il Facebook. Mi hanno dato 1 giga. Però devi caricare sempre 15, il discorso è quello, se carichi 10, ti dura 5 minuti e te ne mangiano il credito. E adesso domani quando vado alle poste mi metto il numero del coso direttamente nel conto corrente, così per andare da lì non sto a girarmi le balle. Quando finisce il credito faccio altro che entrare nell'app e mi carico il telefono. Allora usarete, io ci vado la mancogna, ci faccio niente. Ah, che rimane a piedi, vai a usilo lì, con quella macchina che c'hai. Se non ti cambi quel coso lì, oiaia. Che lì di discesa non ce n'è. È in alzata. Che zecco tu. Per quello già mi piglio un motorino, 300 euro, sa quel motto. Io già lo trovo un motorino. Non ti preoccupare, 200 euro, quello che è. Faccio il patentino. Pago l'assicurazione e sono a posto. Esco in moto. Tanto ormai le giornate stanno allungando. Un po' c'è fresco, un po' c'è caldo. Mi aspettavo i giorni che c'è caldo e poi uscire tranquillamente. Non si sa più cosa, come diavolo è il meteo qui in Italia. Un po', 4 giorni c'è caldo, 20 gradi. Poi te ne scende tutta la temperatura a zero. Poi di nuovo caldo, 20 gradi. Buh. Normale, quanto sembra arriva una passata di neve di là in altre Italia, altri 30 centimetri, così almeno abbiamo un po' di acqua. Cazzo. Se non ti metti nel coso non ti sento. Oppure il vino di Santa Maria a Palma, cazzo. Anzi, direttamente l'uva, dalla Spagna, o dalle Canarie te la porta lì a casa tua, te la scaricare, cazzo. Una bella passata di uva. E già era lì che non ha il pollo. L'ho preso l'altro giorno, un pollo intero, lo apro in due e ce lo metto dentro al fornetto, in un'ora, un'ora e mezza, bello che cotto. Adesso mi stanotte c'ho verdura e patate fritte, e vabbè, patate arrosto, non patate fritte, patate arrosto, il succhi è già buono, le patate arrosto fanno bene, una bella insalata di iceberg. E una volta ce n'era, ma al centro storico ce n'è più. Oramai sono tutti fuggiti e l'hanno esaurito. Poi una volta si facevano la... stavano sempre in giro con le porte aperte. Adesso sono tutti... sembra che ci sia passato la Gestapo. Io credo uno. Io va bene. C'ho un frigo piccolo, Mario. Come cazzo faccio? Se metto una cosa non posso mettere l'altra. Devo cambiarmi il frigo adesso. Piccato il freezer. C'è avuto un freezer rettangolare o quadrato, quello che... da mettere a fianco a quello in modo da farmi la spesa, per dire la carne, tutto il resto che va conservato, come fanno i pastori, mi tale uguale. Quando vuoi togli la carne fuori, la scongeli e te la mangi. Oh, mamma mia, ragazzi, là quando vado lì mi vengono le convulsioni. Là, già lo sai, allora spedi qui un casino. Devi fare la fila 3 km, poi ti arrivano tutti quelli, cazzo, con il carrello pieno di acqua, di tutto, cazzo, fanno la spesa, con il carrello pieno, deve stare un'ora ad aspettare, ce ne sono 6 o 7, tanto non gliene fotte un cazzo a loro, se ne vanno ognuno per i cazzi suoi, hai capito? Aprono due casse e devi stare lì a farti la fila, e vigilano tu dove ti guarda, come per dire, riesci a vedere se quello si mette le cose in tasca. Beh, la carne, se per questo vado la coppia, che costa di meno. Perché io l'ho sempre presa, parecchie volte la prendo lì e le fettine sono mobile, mobile, mobile. Ho preso anche, a volte ci sono anche due pulli, 5,90, lì alla Cobe di Cavolazzi, capito? La salsiccia è quella fatta bene, con tutta la... non è come quella che vende lo spigno. Questa è proprio fatta bene, è saporita, è insaporata dentro. Lì a Carbonate non c'era di quelle, al centro storico poi passava di tutto al centro storico, e a Cane Negre stavano dentro. Adesso lì con Vittorio Emanuele, prima l'ha aperto il bar di fronte, adesso l'ha aperto il bar proprio quello dove abitavo io, sotto casa mia. Ce ne sono tre di fila di bar, compreso dove c'era il circolo prima, ti ricordi, alla piazzetta. Di fronte all'edicola, lì c'era il circo, là sono fatto un bar lì. Tutto bar, cazzo. Boh, io non so come faccio ad aprire a campare lì, la verità. Poi c'è l'altro di fronte. Ci sono 7 bar in un raggio di 3-4 metri l'uno all'altro, a parte un paio di circoli negri. E Raimondo ha servato, ho visto che è chiuso. Hanno fatto un altro negozio, hanno fatto. Dove siamo andati in due una volta, ti ricordi che ti hanno capitato la macchina? Chiuso l'hanno qualcosa, preso ha venduto. Te lo sto dicendo lì con Subito Emanuele, lì c'è tutto bar, ci sono 3 bar, uno dove c'era il circolo prima c'è il bar, poi a fianco c'è il circolo, poi il torre è dall'altra parte, meno male è ancora aperto. E poi ce ne sono 3 tutti di fila salendo in conseguenza di Emanuele, compreso quello che dove sotto casa dove abitavo io, a fianco al negozio dove che c'aveva Feffè, il padre di Feffè. E scendi come al centro storico lì in conseguenza di Emanuele, tutto a Beniso, altro che tutti qui dentro. Io non capito come cavolo fanno a campare lì. Boh, stanno pieno le frutti e verdure, quello lì, ma i bar, boh, deve essere che ci fanno i nigri, bene, che usano i zoccoli. No, oh, ce ne sono più, no, una volta lasciavano le porte aperte, te lo sto dicendo. Le conoscevo tutte, non ce n'è più manco una, sono tutti nigri adesso lì, tutto affittato a nigri, di quelle non ce n'è più. Quelle sono tutte spostate, magari sono lì in corso Vicco, da qualche altra parte, ma non ce n'è più. Prima io via dei Muraglie era pieno, per dire, con Subito Emanuele, eccetera, eccetera. Adesso è tutto un casino diventato. Oh, non c'è più niente, non c'è più nulla, non c'è più niente. Di solito deve venire in giro, adesso manco più in giro dei veri, capito? La mattina andavano a fare la spesa, cose del genere, si riconoscevano le brasiliane, le cose, adesso ma con quello ci sono più, i paliti sono tutti. Ma con i cinesi ci sono, meglio di qualcosa, i cinesi sono lì dove vai tu, dietro l'albergo, e sono tutte là, sono. Sì, sì, sono io. Ah, tra la televisione, TVG. Per carità. Quelle sono televisioni alla della serie, come ti facevi prima, la pastoraccia, capito? L'unica che c'è stava forse canale 12 che hanno fatto, che serve in pratica l'ex antenna 1. Fanno solo informazione e basta. E non fanno altro. Poi TVG mandano sempre le stesse cose, tutti i giorni, tutte le sere, sempre le stesse cose, però non sanno niente da. E poi questa specie di televendite. Infatti non le guarda più nessuno. E poi ci conosciamo con Cappellino, che sembra che è illuso, per carità. L'unico che è sparito è cosa? Che è a Olbia, lavora a Olbia. Adesso non mi viene in mente il nome, che non è Bisex De Santis, Paul De Santi. L'unico è quello, è sparito e lavora lì a Olbia. Qualche tipo privata ogni tanto fa qualche programma, sta bene. E ha voglia. Quello abitava in via Pasquale Paoli, all'ultimo piano, dove nella mansarda di mia zia abitava, figura di due, con la fidanzata. Solo che era bisex. Gli piacevano gli uomini e le donne. Perché proprio dove abitava la famiglia sua era dove c'è lì a Canica. A fianco a dove pagavi la. Come si dice? Adesso mi viene in mente il nome. Pagavi le tasse per. Capito? Esatto, lui abitava a fianco, proprio attaccato a Falcone abitava, te lo dico, di a Falcone, quello parlava baracchino. Lui abitava lì. Tutti e due faceva, tutti e due. Era una bella ragazza anche me, la verità si dica. Mi è sicuro. Era tabù, maniaco che. A Olbia, perché te lo sto dicendo, sta lavorando a Olbia. Quelle TV private, mi sembra TCS sta lavorando. Lui come sta facendo carriera è coso? Giuliano Maluncio, quello che presenta Sardegna 1 e si mette anche a cantare, cazzate l'immagine, un macco. Ha conosciuto un gruppo e si mette a cantare. Ah, questo non lo so, a me non mi sembra la verità si dica, perché era sempre in coppia con quella di Videolina, se ti ricordi, con quella tipa di Videolina che presentava la stessa identica cosa, De Sagre, eccetera, eccetera. Eravamo sempre un pari. Poi ha preso lui, da lì, da Videolina, si era andato a Sardegna a cosa. Ognuno per i fatti suoi, in pratica. E intanto quello fa carriera, almeno si mette a cantare, canta anche bene, non so l'altro. Non so dove diavolo abbia fatto la scuola di canto, però canta bene, la verità. Poi l'altro che ha fatto carriera è cosa? Quello, vabbè, lavora con Canale 5, quello che era le Iene, che era di Sassari. Poi faceva un programma, da lì poi l'hanno preso immediatamente a fare le Iene. Quello c'aveva la faccia di culo ad andare nei posti. Non l'ho sentito stasera, boh. No, già c'era stasera presto è entrato. Questo le 8. E si stava guardando la televisione senz'altro. Sì. Oh, si chiede ragazzi. Sì. Con la fame che va, Nicky. Sì. Un magone. Sì. Le ho già viste insieme a te quelle, non vanno bene Mario. Quelle sono portatevi da mezzo fatto. Hai capito? Quello che ho preso io invece via Napoli, quello che c'hai tu in pratica, il BF888, questo ne ha 5, è una cosa diversa. E poi addirittura ci va sulla frequenza 462, l'ho fatta programmare, tutti e due, i portatili, escono benissimo, funzionano bene, anzi, almeno sono fatte apposta, quando facciamo qualche pianto d'antenna, non deve stare con questo display e cose del genere, se ti ferma non ti possono dire niente, perché non c'è nulla in teoria, hai capito? Li puoi utilizzare tranquillamente. l'ho preso di solito come ottimo, se non l'avevo mai preso. Poi per 37 euro cosa vuoi di più? Per due portatili. Li ho visti i portatili, ne vuole 80 euro, io gli ho fatto vedere la signora Giovanna, ha detto di vedere questi qua dove pagati, detto, due, e tu 25 euro l'uno, gli ho detto. È rimasta così. E dove si prende? Ho detto, vada, ha detto, nel sito, ho detto, li ordina, gli ho detto, scusi, signora Giovanna, lei li paga 25, li vende per dire 30 euro, anzi, perché poi a lei li costano anche di meno, per dire, ma un'ipotesi, no? Dietro lei li vende 30 euro, si fa 5 euro di sgobbo, non va bene, io scusi, anche 35 per dire, però a me non vanno, e li fa programmare da direttamente da cosa, dal fratello di dietro di Daniele, e li ha già programmati per il PMR e l'IPD, e li fa subito fuori, se viene qualche cacciatore, sono troppa via, già pronto. E vabbè, non è che ci vada molta gente, ma anche da Tonino la stessa cosa, mi. Ci sono giorni che è deserto, ormai i componenti di Tonino non ne vende più, è diventato un farmacista, cioè non gli frega più niente, ha detto che non importa più nulla della questione della CB, lui ragiona come ragionare i negozi che ci sono in corsi, capito? Vendono solamente altre cose tale che componenti, quindi se vuoi componenti dice vai su internet e li ordini, ha detto, e se gira mi devo ordinare 200 pezzi per dire, e devo me attacca a culo, se non c'ho un laboratorio e non c'ho il giro, che cosa me ne faccio? Me attacca a culo a un certo punto, e già lo so, manco il monitor lo cambiano, gli fanno arrivare il monitor completamente intero, non fai automatici una scheda sopra e il televisore riparato, capito? Beh, ormai i televisori così non esistono più, a meno che non c'è il botto in Senegal o in questo lavorio dove gli chiaro la fame e vendi quei televisori così, il discorso è quello, e quindi la gente intanto li compra come telecamere, cose del genere, solo da quello guadagni, telecamere e altre cose varie, antenne amplificate, satellitari, ricevitori, solo quella roba lì, amplificatori per impianti stereo, eccetera eccetera, solo quello, componentistica non ne ha più, non ne frega più niente. Infatti io ho detto, ascolta, a un certo punto ho detto cosa ci venga a fare, ho detto se non c'è più niente, cosa faccio? Ho detto vado alla ricerca di baracchini, ho detto per pezzi, a staccare i pezzi e poter fare riparazioni. Che a un certo punto a me per un pezzo non mi conviene neanche, gli ho detto, o dirare due finali e pagare 10 euro di spedizione, o 5 euro di spedizione. Ehi, già lo so, quello, transistor, eccetera, eccetera, condensatori, e balle varie, valvole, il discorso è quello lì. Ui, aia. Ehi, vabbè. Quello che vende, riesce a vendere e vendere, sta ancora andando avanti. Poi vedremo in seguito cosa succederà. In Cina comunque, se tu vai a passeggiare lì nelle, tipo con subito Emanuele, in ogni coso ci sono le bancarelle e ti vendono le schede già pronte per qualsiasi tipo di televisore, eccetera, radio, eccetera, eccetera. Eurasia mi pare che, no, cinese non lo so chi è che vende roba usata, quello è napoletano, già lo sai, roba usata, c'erano le palette per i muratori a lui, già le hai viste anche tu, non lo so allora chi è l'altro, cosa ne so qui, guarda tu stai parlando, infatti, dove c'era napoletano prima stai parlando, è sempre roba sua. Ricordati che quello che c'è di fronte al supermercato ci ha messo la figlia e lui è sempre dove era prima. E io ci ho trovato due baracchini lì, e ho chiesto quanto ne voleva, mi ha sparato 50 euro l'uno, ha detto fa una cosa, ha detto 29 euro l'uno, il Baofeng 25 euro l'uno, ha detto prendi la internet, ha detto mi ha uscito dai fianchi. Capito? Quello è, tu stai parlando, quello dove era prima, che è di fronte a quel cinese, che abitava in Corso Vittorio Emanuele, che conosco io. due cose c'ha, perché non lo sapevo che c'aveva due cose. Uno c'è lui e l'altro c'è la figlia. È stato un furbo, si è pigliato quel cappallone e ci ha messo la figlia. Si è pigliato due cappalloni, si è pigliato, non era solo uno, ne ha due cappalloni. È sempre lui. Poi l'altro nuovo che era aperto in via del produttore e quello di un altro a fianco a Carboni, la ferramenta. Poi c'è il portobello normale. Poi l'altra roba usata non lo vende nessuno. Quello dove c'è di fronte a quel cinese, ti sto dicendo che è roba di quel napoletano lì. E beh, lì vendono roba seconda mano. Ah, non t'avevo capito, scusa. La roba nuova già ho capito quale sta dicendo. Quelle cose dove siamo andati noi due. Che grande, grande. Chiamalo di corpo. Figurati. Hai fatto bene. Meglio così. Mezzo gai. Beh, adesso me ne vado a mandigare che c'ho fame. Ci sentiamo al limite dopo, se no domani Manzano, se ti svegli alle 9:30. C'è l'acqua del rubinetto, non ti preoccupare, sto usando quella, perché l'acqua gasata mi stava gonfiando. Guardi, lo sti sembrava cosa, aranciata Coca-Cola, Maria, questa aranciata che ti gonfia lo stomaco. Vabbè, sentiamo domani mattina, là. Se ti alzi presto, ci vediamo, ci beviamo il caffè. Va bene, faccio così, dai. Sentiamo domani, ciao.